Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Via libera delle autonomie locali alle linee di gestione della sanità regionale, mentre è stato di nuovo rinviato il dibattito sulla rete oncologica. Siamo andati nel carcere triestino del Coroneo per capire quale sia la situazione di una casa circondariale in cui uno dei principali problemi è il sovraffollamento. A dispetto della crisi, il porto di Trieste resiste, oltre 54 milioni di tonnellate movimentate, più 6,42%. Cassonetti stradali intelligenti nei quartieri più affollati, al via Udine un progetto sperimentale della NET. La critica della CGIL del Friuli Venezia Giulia al piano di dimensionamento scolastico preannunciato dalla Regione. Sport, calcio, l'Udinese affronta in trasferta una temibilissima Fiorentina al Franchi, mentre per il basket a Udine vittoriosa contro la corazzata Cantù. Per il volley nulla da fare per la CDA Talmassons contro Roma, friulana al penultimo posto in classifica con 9 punti. Alle 12.31 minuti, ancora un cordiale buongiorno da Maria Spezia e da Armando Mucchino, voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Dopo il rinvio della settimana scorsa, chiesto da alcuni sindaci per approfondimenti, è ripresa oggi la discussione in Consiglio per le autonomie locali sulla sanità. Via libera alle linee annuali di gestione, mentre è stato di nuovo rinviato il dibattito sulla rete oncologica regionale. Sentiamo. È passato senza voti contrari il parere del Consiglio per le autonomie locali sulle linee annuali per la gestione del servizio sanitario. Al documento si era opposta soprattutto la Tesana per i timori legati alla possibile chiusura del punto nascita. Su proposta dell'assessore Riccardo Riccardi è stata invece rinviata a gennaio la discussione sul piano della rete oncologica regionale, che aveva creato malumori soprattutto dalle parti di Pordenone e in particolare in Fratelli d'Italia. Un rinvio frutto di una mediazione raggiunta ieri tra il partito con il coordinatore Walter Rizzetto e il presidente Massimiliano Fedriga. Lo stesso governatore aveva presieduto un incontro ieri con il sindaco di Tisana, Lanfranco Sette, con i capigruppo consigliari, arrivando a un punto di caduta che allontana la prospettiva di un'eventuale chiusura del punto nascita. Stralciata la scadenza del 15 maggio come data entro la quale il Ministero doveva dare il via libera alla deroga per il mantenimento dei punti nascita sotto i 500 parti l'anno, soglia che la Tisana e Tolmezzo non raggiungono. Di qui il sì del sindaco 7 condizionato alle modifiche concordate. Astenuti i comuni di centrosinistra, Udine e San Canzian di Sonzo. La riunione è durata meno di un'ora, è stata caratterizzata da uno scambio di opinioni tra Riccardi e 7, talvolta acceso, soprattutto quando Riccardi ha parlato di un dato di parti cesarei, 50% del totale, che il sindaco di Latisana ha voluto subito smentire. Il dato del 2023 era del 16% in realtà. La seduta del CAL ha preceduto di qualche ora la riunione di maggioranza in cui si discuterà anche di sanità e nella quale potrebbe arrivare il via libera ufficiale alla candidatura al sindaco di Pordenone di Alessandro Basso, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. 12.33, passiamo al meteo. Il cielo è da nuvoloso a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 6 gradi e 5 decimi, a Gorizia e Udine 5 gradi e 5 decimi, a Pordenone 4 gradi e mezzo. In Aramontana, Forni di Sopra 2 gradi e 5 decimi, Tolmezzo 1 grado, a Tarvisio 1 grado e 5 decimi sotto lo zero, mentre a Piancavallo ci sono 0 gradi, a Sappada 2 gradi. Negativi in quota sul Monte Zoncolan si è sotto lo zero per 5 gradi e mezzo, mentre sul Monte Lussari si è sotto lo zero di 7 gradi e 5 decimi, sulla costa Grado Lignano 6 gradi. Le previsioni: oggi cielo poco nuvoloso sulle zone occidentali, da variabile nuvoloso su quelle orientali e sulla costa, dove comunque il vento si attenuerà. In giornata vento da moderato sostenuto da nord, solo ad alta quota. I dati del porto di Trieste nei primi 11 mesi del 2024 risultano in sostanziale tenuta. Emergono infatti alcuni incrementi nonostante la crisi del Mar Rosso e la recessione economica in Germania, a fronte di oltre 54 milioni di tonnellate movimentate e di una crescita del 6,4% dei volumi totali. L'aumento si deve per la maggior parte al settore energetico, in particolare per le rinfuse liquide, che registra una crescita di poco al di sotto del 10%. I container rappresentano il settore più critico per la situazione del Mar Rosso, ma i valori sono diminuiti dell'1,1% rispetto all'anno scorso, a fronte di 770.300 TEU. Diminuite dell'1,7% le unità transitate del settore RoRo, che sono state 270.000 a causa delle difficoltà nelle industrie estere legate a questi traffici, sebbene l'autostrada del mare abbia registrato un aumento del 7,2% delle toccate a fronte di 787 passaggi grazie all'introduzione di nuove linee. L'assenza di traffici del sistema siderurgico locale ha comportato la riduzione del 72,6% delle rinfuse solide, anche se la sottocategoria dei cereali è aumentata del 5,6% su impulso delle aziende alimentari del territorio. Segno meno per i treni operati, che sono stati 7.261, con una contrazione del 12,4%, anche dovuta a cantieri ferroviari, sebbene per il Molo Sesto e il Terminal Cereali il risultato sia stato in positivo, così come per l'interporto di Cervignano, cresciuto di quasi il 20% con 1.166 treni. Fiore all'occhiello del sistema portuale, traffico croceristico, che ha superato la soglia di 500.000 unità, crescendo di quasi il 9%. Il porto di Monfalcone registra invece un andamento in negativo pari all'8,2% con 3.280.000 tonnellate movimentate a causa del conflitto in Ucraina e alla situazione nel Mar Rosso, oltre che alla crisi del settore automobilistico, ma in novembre si è assistito a segnali di ripresa rispetto allo stesso mese del 2023. Le flessioni del 2024 hanno riguardato le rinfuse solide, meno 7,5%, e i veicoli commerciali, meno 26%, nonostante l'espansione di cereali più 59% e prodotti chimici più 34,4%. In rallentamento del 5% poi il settore ferroviario, nonostante 1.700 treni manovrati a Porto Rosega, che hanno segnato il secondo miglior risultato degli ultimi anni. Secondo i dati di Unioncamere, nel solo Friuli Venezia Giulia, nei prossimi 4 anni ci sarà un fabbisogno di lavoratori pari a circa 75.000 unità. Per questo motivo alcune realtà nel campo della somministrazione del lavoro hanno lanciato un progetto con l'obiettivo di ovviare alla necessità. In partenza nel prossimo anno la fase pilota del progetto, che interesserà sia il Veneto sia il Friuli Venezia Giulia, dove alla crescente richiesta di personale si unisce la necessità di ripopolamento dei piccoli centri urbani. Da gennaio ci sarà un coordinamento per favorire il rientro di cittadini italiani o con origini italiane residenti in Argentina. Le realtà forniranno supporto completo per quanto riguarda le pratiche burocratiche, legali e immobiliari, oltre a garantire un'occupazione ai candidati selezionati, creando così un processo di immigrazione sicuro e controllato. Nel carcere triestino del Coroneo il numero dei detenuti è diminuito rispetto a luglio scorso, quando c'è stata la rivolta dei carcerati, ma resta comunque un numero importante. Le problematiche non mancano, dove però si cerca anche di tenere occupate le persone con attività lavorative e di studio. Nel servizio è la voce di Graziano Pue, direttore del carcere di Trieste. Il servizio non è ancora pronto, passiamo al servizio successivo. Pordenone, economia di resistenza e prospettive per il 2025 nelle analisi di Confindustria di fine anno. Sentiamo il presidente Michelangelo Agrusti. Presidente, come si chiude il 2024? Che anno è stato per il sistema produttivo del nostro territorio e quali sono le prospettive per il 2025? Innanzitutto devo dire che, tenuto conto del contesto internazionale e geopolitico e delle crisi in atto a livello mondiale, abbiamo perso mercati come la Russia, abbiamo difficoltà nelle relazioni con la Cina, il mondo è in subbuglio, viviamo in una sorta di economia di guerra. Devo dire che la nostra realtà economica è stata una economia di resistenza. Ha saputo mantenere i suoi livelli produttivi sostanzialmente, non abbiamo grandi crisi conclamate, ne abbiamo risolte alcune che avevano dimensioni enormi, penso alla Wärtsilä, una battaglia straordinaria fatta tra tutte le forze politiche, economiche del territorio di Trieste in particolare. Ci sono altre due crisi sempre nel territorio triestino che sono, secondo me, in via di soluzione. Nel resto del territorio della nostra Confindustria Alto Adriatico, che ricordo riguarda Trieste, Gorizia e Pordenone, crisi conclamate non ce ne sono. Ci sono delle difficoltà in alcuni settori, soprattutto della subfornitura riferibile all'automotive e in parte anche all'elettrodomestico, ma diciamo che a fronte di un aumento fisiologico della cassa integrazione non abbiamo annunci di crisi gravi, quindi tenuto conto della tenuta del settore del legno arredo possiamo dirci che a fronte di tutto quello che c'è stato, di tutti i cigni neri che abbiamo incrociato, le cose sono andate meglio di quanto potessimo immaginare. E come vede il 2025? Ma il 2025 si apre con lo stesso scenario del 2024, con qualche speranza in più, la speranza che la guerra in Europa finisca, che si ricomincino a ricostruire relazioni industriali e commerciali in un ambito più ampio di quanto eravamo stati costretti fino ad adesso. Dobbiamo tenere conto tuttavia di quelli che saranno gli impatti delle politiche economiche della nuova amministrazione americana, però io credo che ci può essere un effetto benefico di tutto questo, perché costringerà l'Europa a diventare Europa. Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. La Polizia di Stato di Udine ha ricordato oggi 3 poliziotti uccisi da una bomba in Viale Ungheria il 23 dicembre del 1998. Ricorre infatti il 26° anniversario del tragico evento in cui perse la vita il sovrintendente capo Adriano Ruttar, il vice sovrintendente Giuseppe Guido Zanier e l'assistente capo Paolo Cragnolino, all'epoca tutti in servizio alle volanti della Questura di Udine. In onore ai poliziotti caduti, il questore di Udine, Domenico Farinacci, ha deposto un omaggio floreale a nome del capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani, presso la lapide collocata sul luogo della strage al monumento dedicato ai 3 poliziotti. Nel pomeriggio sarà celebrata una messa nella chiesa della Beata Vergine del Carmine, officiata dall'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba, con il cappellano della polizia, Don Angelo Favretto. La celebrazione sarà accompagnata dal coro polifonico di Ruda. E torniamo al servizio sul carcere triestino del Coroneo, in cui il numero dei detenuti è diminuito rispetto a luglio scorso, quando c'era stata la rivolta dei carcerati, ma resta comunque un numero importante. Le problematiche non mancano, dove però si cerca anche di tenere occupate le persone con attività lavorative e di studio. Nel servizio sentiremo la voce di Graziano Puia, direttore del carcere di Trieste. Il Coroneo è un edificio che risale al 1911, fu costruito dagli austriaci, i primi detenuti vi entrarono nel 1912, all'epoca la capienza era di 535 reclusi. Oggi i posti sono invece 150, ma la presenza si aggira quasi sempre attorno alle 250 persone. Siamo entrati all'interno del carcere del Coroneo per capire come si festeggia il Natale in un luogo come questo e siamo con il direttore della struttura, Graziano Puia. Tra 48 ore è Natale, come si festeggia qui? Come sempre, è un momento, il Natale è un momento di aggregazione e quindi c'è molta partecipazione della comunità esterna, sia attraverso donazioni, sia attraverso, come vedete alle nostre spalle, donazioni anche istituzionali, quindi da parte del comune che ci ha donato questi alberi. Ecco, noi siamo nell'area trattamentale, un'area molto colorata in cui si fanno tante attività e siamo assieme a Luca Zolle, ispettore superiore e vicecomandante della Polizia Penitenziaria. Che attività si fanno qui? Allora, qui facciamo diversi tipi di corsi, facciamo dei tipi di corsi scolastici, semplicemente diciamo la scuola come alfabetizzazione, corsi di inglese. Direttore, che tipo di lavoro viene offerto in carcere? Sì, essendo una casa circondariale lavoro prevalentemente di tipo domestico e quindi cucina detenuti per cucinare il vitto che l'amministrazione offre loro e poi le pulizie ordinarie e straordinarie che si fanno. Aziende del territorio che possano proporre lavoro qui dentro? Sì. È possibile farlo? Dei laboratori, penso alla saldatura o altro? Certo, ovviamente c'è bisogno di locali idonei. E allora andiamo a vedere un laboratorio che c'è all'interno del carcere per la panificazione. Direttore, questo è il laboratorio di panificazione e panetteria, una realtà importante, nata una ventina d'anni fa, costata 500.000 euro all'incirca. Che cosa fate qui? Allora, qui si fanno ovviamente i corsi di laboratorio di panificazione e pasticceria. Gli enti formatori sono prevalentemente quelli regionali. I ragazzi che escono di qui hanno un attestato e di fatto sono pronti a lavorare. Esatto, quindi hanno un attestato, un titolo spendibile sul mercato del lavoro. Incontriamo Kevin. Kevin, lei più o meno tra un anno uscirà da qui. Ha imparato un lavoro che potrebbe fare un domani? Sì, vero, come panificazione, pericolo, pasticceria. Vede un futuro di fronte a lei? Sì. Se è possibile, sì. Da Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Riguarda circa 2.300 udinesi, di cui il 60% residenti in condominio, il progetto sperimentale della NET Casa per Casa Smart di raccolta di rifiuti urbani tramite campane stradali smart. Dopo le feste, entro febbraio 2025, partirà per 1.360 utenze e 2.400 famiglie udinesi una sperimentazione di raccolta differenziata per 4 mesi con campane intelligenti dotate di sensori. Ogni utente nelle 11 postazioni di altrettanti condomini della città potrà conferire rifiuti aprendo la bocca di carico con un dispositivo associato alla propria utenza. Nella campana i sensori volumetrici saranno in grado di misurare peso, ricostruire in 3D come disposto il rifiuto, segnalare anomalie e ai servizi operativi quando la campana è piena all'80% per essere svuotata. La sperimentazione, denominata Casa per Casa Smart, è stata presentata nella sede della partecipata NET. Presenti diversi amministratori di condominio, partirà una campagna informativa con gazebi nei quartieri e campane dimostrative per l'utenza. I camion dedicati avranno un operatore a bordo invece di due e i cassonetti, che non possono rimanere aperti, saranno svuotati solo quando necessario. Questo dovrebbe consentire risparmi, ha affermato Eleonora Meloni, assessore con delega all'ambiente, anche per investire in altri progetti come gli ispettori ambientali e gli spazzini di quartiere, permettendo anche assunzioni, internalizzazione di risorse e meno carichi manuali per gli operatori. Con questa sperimentazione, che si spera di estendere, si riuscirà a capire infine anche quanto conferisce effettivamente il singolo utente. Claudio Siciliotti, presidente della NET. Tutto questo dovrebbe avvicinarci al concetto della cosiddetta tariffa puntuale, cioè si paga per la misura di quello che si conferisce. Il vantaggio per l'utente deve essere quello dell'ottimizzazione dei costi, ma deve essere quello di una città pulita. Io credo che la pulizia vada a braccetto con il decoro e anche con la sicurezza. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel primo semestre del 2025 a Trieste saranno allestiti musei e biblioteche civiche dei punti per l'allattamento. L'iniziativa è stata presentata questa mattina in municipio. Spazi sicuri e attrezzati per le mamme che allattano saranno allestiti nel primo semestre del 2025 nelle biblioteche e in alcuni musei aperti al pubblico del Comune di Trieste. I lavori, finanziati dalla Regione con 33.000 euro, saranno realizzati nei prossimi mesi e saranno 5, una per ciascuna biblioteca cittadina. Da diversi anni tutte sono dotate di uno spazio 0-6 anni per la lettura precoce. Alla luce della frequentazione dei luoghi da parte di mamme con neonati, è stato deciso di partecipare al bando regionale con 5 proposte progettuali per migliorare il benessere dell'utenza. I nuovi box bebè riguarderanno la biblioteca civica Ortis, il museo Letz, le 3 biblioteche comunali di pubblica lettura 48 Gambini a San Giacomo, Mattioni a Borgo San Sergio e Marinelli a Melara. Negli spazi ci saranno una poltrona per l'allattamento, un fasciatoio, dei separè con tasche espositive, 2 mobiletti per riviste, un tavolino e un mangiapannolini, oltre a un ambiente adatto a ospitare e intrattenere fratellini più grandi durante l'operazione. Il comune, con l'assessore alla famiglia De Blasio, ha deciso inoltre di partecipare al bando regionale per l'assegnazione dei contributi per la dotazione degli uffici comunali di aree dedicate la cura dei neonati, ottenendo un ulteriore finanziamento di 24.700 euro. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Valorizzazione degli stage operativi, definizione di moduli formativi da attuare per la realizzazione dell'accesso al ruolo della polizia locale tramite corso-concorso. Sono alcune delle novità del 16° programma formativo per il personale della polizia locale approvato dalla Giunta regionale. L'impianto del programma formativo adottato negli anni precedenti, ha spiegato l'assessore Roberti, è stato confermato per il 2025 e sono state apportate ulteriori migliorie nella didattica e nei contenuti. Nessun legame con il calo demografico, ma solo la riproposizione di una logica di tagli che aveva già caratterizzato il piano di dimensionamento scolastico 2024-2025 approvato in giunta. Così la Federazione Lavoratori della Conoscenza FLC della CGL boccia la proposta di piano 2025-2026 in corso di discussione presentata dall'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen. L'adeguamento, ha dichiarato il segretario regionale FLC CGL Massimo Gargiulo, rinvia all'anno che verrà le scelte autenticamente programmatiche. Intanto si taglia, poi si vedrà. Siamo di fronte anche a un cortocircuito deliberativo, con una mano si taglia e con l'altra si impegnano somme del bilancio regionale per lenire, vedremo con quale efficacia, gli effetti dei tagli, ha proseguito Gargiulo. Al municipio di Gorizia questa mattina sono stati illustrati gli interventi di riqualificazione dei beni ecclesiastici dell'Isontino che saranno realizzati nel prossimo anno con contributi regionali. Il contributo alle parrocchie, agli enti ecclesiastici riconosciuti e agli ordini e istituti religiosi cattolici della regione arriva direttamente dall'assestamento di bilancio regionale, 4 milioni per il recupero dei beni immobili più 1 milione per quelli mobili. Tra i principali fautori del contributo regionale c'è il consigliere Caligaris del gruppo della Lega, che ha sottolineato come nel testo sia stata inserita anche una specifica premialità per gli enti ecclesiastici proprietari di spazi che potranno implementare i posti letto in ottica Go 2025. 2 milioni e 100 mila euro sono le risorse destinate agli immobili nel territorio dell'arcidiocesi di Gorizia, 700 mila euro sono stati destinati a 3 interventi nella città e 1 milione e 400 mila per i restanti interventi in provincia. In particolare sarà riqualificata la casa sacerdotale della diocesi, luogo frequentato da studenti provenienti da tutta Europa, con un importante intervento di messa in sicurezza del valore di 300.000 euro. Una volta completati i lavori garantiranno una capacità di 48-50 posti. Fondi sono destinati anche alla foresteria dei Cappuccini e alla ristrutturazione del complesso dei Salesiani per un totale di 300.000 euro a ciascun intervento. Il restante 1.400.000 sarà impiegato per facilitare alcuni interventi di restauro nel territorio dell'arcidiocesi goriziana, tra questi la chiesetta di Soleschiano, l'oratorio Coassini a Gradisca e la chiesa di San Giovanni in Tuba a Duino. Gorizia, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio della Serie A con l'ultima trasferta del 2024 per l'Udinese. Questo pomeriggio in calendario sul difficile campo di Firenze. Probabilmente Lovric sarà in panchina per un impiego nel corso del match, mentre è scontata la presenza di Sanchez, che si è visto nella prima frazione della gara di Coppa Italia contro l'Inter. Probabile che il cileno non parta dall'inizio, ma che venga inserito nella seconda parte di gara, facendo rientrare nella formazione iniziale Thauvin in coppia con Lucca. In difesa si registra un lieve affaticamento muscolare per l'argentino Giannetti, con Touré iniziato numero uno per la sua sostituzione a completare il terzetto arretrato assieme a Christensen, che si è ripreso il posto da titolare dopo il rientro dall'infortunio, e la certezza Bijol rispetto a Milano, considerata l'insistenza alternativa a Karlstrom in cabina di regia, Atta e Ekkelkamp come interni in mediana. Ritorneranno gli esterni di Rugni, ci considera al momento come titolari e Zibue sulla corsia di destra e Zemura sul lato mancino. Per il basket di Serie A2, la Pudine ha battuto in trasferta ad Esio la quotatissima Cantù per 83-74. Il servizio della collega Chiara Rancati della redazione lombarda della TGR. Udine espugna il Paladesio, fino a ieri fortino inviolato della Pallacanestro Cantù, e conquista il secondo posto solitario in classifica, a soli 2 punti da Rimini sconfitta a Verona. Finale 74-83 per una partita più di nervi che di bel gioco, in cui i friulani fanno sempre corsa di testa. Trainati da un Anthony Hickey superlativo, 23 punti e 6 assist, vero punto di riferimento soprattutto nell'ultimo quarto. Udine inizia a costruire il vantaggio fin dalla prima frazione di gioco, con la partenza sprint di Alibegovic che mette 11 punti in 8 minuti. Cantù, imprecisa al tiro e nervosa in difesa, non riesce a tenere il passo, con il solo McGee capace di pungere in attacco. Si arriva all'intervallo lungo sul 33-42 in un Paladesio caldissimo anche sugli spalti. Nel terzo quarto i brianzoli scendono in campo con un altro spirito e sembrano recuperare terreno, risalendo fino a meno 4 con un contropiede spiazzante di Andrea De Nicolao. Ma Udine risponde con 2 triple pesanti di Icangi e da Ross, riuscendo a tenere a distanza gli avversari, che hanno una nuova scossa prima dell'ultimo intervallo con 2 triple di Moraschini, di cui una quasi da metà campo. Non basta però, negli ultimi 10 minuti con grande tensione in campo, la Old Wild West riesce a tenere a bada le bocche da fuoco canturine e a mettere punti importanti, nonostante l'uscita anticipata per falli di Alibegovic, portando a casa una vittoria che vale anche la qualificazione matematica alla Final Four della Coppa Italia di A2. Volley femminile, la CDA Talmassons ha perso in casa la Tisana per 1-3 contro la Roma Volley, friulana al penultimo posto in classifica con 9 punti. Gli scontri diretti rimangono indigesti alla CDA. Nella prima giornata di ritorno, la SMI Roma passa alla Tisana conquistando il bottino pieno. È stata l'attenzione in difesa a fare la differenza in un match che è parso ampiamente alla portata del Talmassons. La partita inizia bene per la formazione friulana in maglia fucsia. Il piccolo vantaggio iniziale viene consolidato, la CDA respinge il tentativo di rimonta delle romane e chiude 25-21. La svolta si concretizza a metà del secondo set, propiziata dall'ingresso dell'opposta Delusi al posto di Orvosova. Le percentuali in attacco cambiano a favore delle romane, che capitalizzano un paio di mini break e pareggiano il conto sul 25-20. Il terzo set rappresenta lo spartiacque del match a favore delle ospiti. Dal 16-14 per la squadra di Barbieri, la SMI cambia passo in difesa, costringendo la CDA ad un supplemento di fatica per mettere a terra il pallone. Nel finale, decisivi due muri punto della capitana della Roma Rucli, l'unica friulana in campo alla tisana. Con un parziale micidiale di 6 punti, le laziali si portano avanti, chiudendo ancora il set sul 25-20. Nel quarto parziale il Talmassons sembra disunirsi e perde sicurezza anche in ricezione. Sul più 8 per le ospiti i giochi sembrano fatti. La formazione friulana ha un sussulto e torna a meno 2, ma non basta. La spinta offensiva di Adelusi risulta ancora decisiva e il match termina con il 25-22 per Roma, che incamera 3 punti e sorpassa Talmassons in classifica 10 punti contro 9. L'opposta Stork non ha fornito il solito apporto, ma la squadra nel complesso è apparsa sottotono nei momenti decisivi. E a Santo Stefano ci sarà la sfida in casa del Conegliano, campione del mondo per club. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Era questa l'ultima notizia, ha collaborato in redazione Danilla Sossi, per la parte tecnica Federico Comar e Carlo Morello. Maria Spezia e Armando Mucchino vi ringraziano per l'ascolto, augurandovi una buona giornata. Il giornale radio delle 18.30 sarà anticipato alle 18.05 per lasciare spazio alla radiocronaca di Fiorentina Udinese delle 18.30. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.